niente, e poi subito a casa. Poi la sera non si riesce a nulla, che non ve ne sono, esatto, cazzo è tutto da sera, tutto salvato, esatto, appagati di muri. Volevo fare una prova a WhatsApp a vedere come è arrivato, ma Marino non c'è più. Aspetta, Antonio, prova. Sì, Marie, come arrivo adesso al tappa? 9.15 qua mi sta arrivando, anzi, 9.15, tutto sparato. Era una prova, era una prova, lì alla Terroce come arrivo. Manuel. Sì, Oca. Secondo te, Antonio, come arrivo alla Terroce? È casino che è in saturazione, mi lascia un poco, è in saturazione. 9.15, 9.20 è qua. Vabbè, no, era solo una prova, era, dai. Adesso rimetto come era prima, è solo una prova. È troppo vicino, tu, no, non fa, capito? Quando sei troppo vicino così è un casino. Ah, era solo una prova, adesso rimetto come era prima. Magari ti ascolta meglio senza... Un po' più matti, ma guarda dove siete troppo vicini, capito? Lo so, dai, Bianco che adesso sta scolando la pasta, scendo giù, torna. Sì, per le tre fasi. Le radio su, aspetta, sale e scendi, no, va bene, dai, K, ok, Marì, niente, dai, ci sentiamo allora, Marì. Ok, dai, chiudo, stiamo, chiudo, non mi posso, non devo fare lo squillo, sai dove stai, e io via, ok, dai, stai già, ciao, Claudio, ciao, Emanuele, ciao. Ciao Marì, che ti dirigi, dove butti? Dai, ci sono giù fuori a scuola, vero? Allora, faccio la prima passata, allora, se non vuoi. Ok, ciao. Ciao, Marì, ciao. Alle prossimine. Niente, Emanuele, è così. Niente in particolare. Si esce, si rientra a casa, Stamattina che c'era un po' di vento, sono messo a dedicato a fare due spostamenti con le antenne. Praticamente la mantola mette la velocità direttiva. La bibanda mette la voce la manta, va, capito? Sono sistemate di poli, così intanto può ammazzare il vento, niente di particolare, beh. Ma la terra è sempre quella là, cioè quella della Diamo, cos'è? Dalla 50 o la 30 ci arrivi? Non la X50 ormai, la 510 va per Luca, ce l'ha tutta sistemata e ce l'ha lui. No, la X50, ce la metto più antenne lunghe. Mi sistemo la manta, va bene, bene, perché la qualificazione dopo la direttiva è una qualificazione bella tosta, quindi la metto lì, senza tiranti, tira su 4 metri, boh, la lascio stare lì. Poi ci sono i bipoli, 15, 20, 40, 80 e basta. Adesso abbiamo tolto tutto, ma è fatto pulizia a vero. Hai fatto bene, non è valido la pena, avere anche tutte antenne, da voi cazzo, non mi dico di che ne va in terra, che ne va, che fa qualche forma, qualche cosa, non ne vale più la pena. Non ne vale più un accidente. Comunque la X50 è come quella che ho io sul tetto. Quella lì va benissimo la terra. Sì, ma c'è anche la monobanda, io lo so, per le V, capito? Che ce l'ho collegata al 275H, quella per i ponti. Quella piccolina è per giocare col PMR, basta, non me la fatti più nulla, ma l'ho già venduta, anche il rotore direttivo l'ha già venduta, il cashado, ce l'ha tutto messo da parte. Ho altre due radio anche in vendita, se ne sta occupando Luca. Sto facendo un po' di pulizia, molto probabilmente mi terrò il 140 col 430 e questa la metterò in vendita, sicuramente. Adesso vediamo un po', questa 275H, lo standard, un po' di materiale vuol fare fuori, dai, ne ho troppe, ma ne ho troppe, ne uso poche, quindi mi tengo quelle che uso. Vabbè, ma conviene, conviene a vendittini, che si chiamano tanti vendittini. Non ne vale la pena tenere tanti orari, che da voi non li tracchi, anche non ne vale proprio la pena. Ma sono quelle 3, 4, non di più, e mi andare, le antenne ce li hai, boh, una chiacchierata te la fai sempre. Io anche che era per chi no, 430 non andano a TEF, 140 non andano a TEF, se voglio chiacchierare già chiacchierò lo stesso, non c'è ne ho problemi. benissimo tutto quello che ho recuperato, i soldi, e magari guardarci pure che mi prenda un HF1, uno solo di ultima generazione e basta, capito? Però per il momento devo fare pulizia della roba vecchia, perché sono radio già adattate, che ho tanti anni, anche se sono nuove, e quindi magari mi prendo una radio di ultima generazione, capito? Devo vedere, Emanuele. Io se compro un attico, dipende da cosa mi attaccavo. Dipende quanti dovrebbe su Mazzaro. Ma il 140 non lo stai vendendo? Ho fatto scambio con un'altra base, con un 120H, con un amico, capito? Ho fatto scambio, lui mi serviva quella, ma mi... mi ha proposto lo scambio, però beh, mi ha fatto in termini, facciamo scambio, ma è nuova. Non avevo manco l'ultimo decimale, lavorato pochissimo, è veramente in ordine, nuova, internamente. L'ho aperta io per controllarla e me la sono un po' tirata, diciamo, e quella già la conosco, dove mettere le mani. Magari questa no, ma fuori sì, e quindi me la sono un po' tirata, l'ho messo l'ultimo decimale, l'ho cambiato la lampadina, che quelle si bruciano, gli ho messo il LED con la resistenza bianca allo Smith, ma ho fatto altro, perché è veramente a posto, nuovo. E quelle lampadine come ha messo Luca nella radio da me, nella Galaxy, quelle a LED, sono cazzo che si avvogliano e valgono di luce. Io ho messo proprio la lampadina, lui c'ha quel kit, no? Io ho comprato proprio la lampadina con la resistenza e l'ho messa nella sua sede, obbligata, con il gommino suo, sembra originale praticamente, non ha già fatto nulla, solo che anziché esserci la lampadina c'è il LED bianco, è bello illuminato, perché era gialla la luce, no? Non mi piace, capito? Ce l'ho tutte e tre così, anche il 430 è così, il 440 lo stesso c'è il LED bianco. Basta, non ho fatto altro, ma no, poi me l'ho tutta memorizzata, ho messo tutti i 40 canali e basta, non ho fatto altro. Andare da questa qua, quale stai usando? Il cazzo che stiamo avendo una zona della paura, quella radio questa, il 4.30 sto usando. Adesso se lo mangia questo è il 4.30, questo è il 4.40, anche quello ho fatto un ritocchino, perché mi sono accorto facendo quella di un altro, capito, che la posizione dell'LC era molto molto bassa, anche questa non aveva la metà, e allora me la sono portata praticamente a metà, al 50%, era al 20-25%, me la sono portata al 50%, ma è sempre all'interno dell'LC, però ho fatto, vediamo, che non l'ho controllata, sì, ora, e siamo... Quasi al termine della striscia rossa, però neanche fischiando esce fuori, quindi va bene così, dai. Cazzo, la modulata nella paura, rischia. Bella corposa, bella forte, squillante, bella radio. Sì, questo è il 440. Questo è il 440, adesso è il 430 a Germania in trio, perché ho già fatto le prove, ed è molto più alta, nonostante prima la tenevo una e mezza, adesso ce l'ho uno, amiche gay, figurati. L'ho dovuto anche abbassare i Mickey Game, perché chiaramente tirando sull'LC sale i picchi di modulazione, sale anche la modulazione, quindi lo tengo un pochino più basso. E così ho fatto 140, ma la stessa cosa. Mi ho regolato l'LC, sempre nei limiti, e qualche ritocchino così. I watt erano già buoni, erano circa 80 watt, quindi non li ho toccati. Va bene. Ma poi l'altra volta c'era Danilo, dice che era bici, cosa ha combinato, per carità? Danilo, cosa ha combinato? Buono, non lo so, ma io c'ero. E dice che l'ha fatta aprire, non so, mi aveva detto per telefono cosa toccare, cosa non toccare. No, non lo so, non c'ero io allora, non lo so. A me mi ha chiesto, perché ha sentito la mia 140, ma ha toccato quella di Avassi, e certo che va, e quando le compri queste radio non escono così, vanno tutte per l'M, va fatto tutto il sistema di lavoro, però se ti muove a partigiano non combini nulla, infatti io gli ho detto non toccare niente e lasciala così, capito? Infatti mi ha detto se gliela dicendo. Infatti l'ho detto che lo avviso io, devo vedere un pochino. Se fallirà o non fallirà. Quello lì è il problema, è bello che magari tocchi qualcosa, che magari la radio c'ha qualche difetto, la colpa la noi, anche se può se ne male tu. E lì la mia paura, hai capito? Perché è roba mia, me la faccio per me. Se sbaglio mi assumo la mia responsabilità, però quando lo fai per un altro, non hai l'attrezzatura per farlo, io non ho problemi con 140 e 70, ti ripeto. 430 e 440 io non le tocco perché la componentistica è completamente diversa. Però 140 e 70 li ho sempre fatti, c'ho tutto scritto, quindi vado a toccare quelle resistenze, appunto, quei trimmer che devi toccare, capito? Poi sono tutti variabili, quindi sai quello che stai facendo. Però quando uno non ha la roba scritta, non sa dove mettere le mani, è un casino. Addirittura mi hanno detto che c'è lo Smitter che gli arrivano tutti 9 più 20, boh, oggi non preso, lo sono inducato in chissà radio, ma detto che era nuova roba, la mia è perfetta, non ho toccato niente. Era proprio come nella casa, la potenza giusta, 80 watt, perché più di quella no, in FM non sale, mentre Hitler tratta 150 in FM, se no 200, però non l'ho fatta per me, capito? Quindi bisogna controllare lo Smith per vedere perché arrivano tutti 9 più 20, tirare sulle LC, fare alcuni ritocchi e vedere se tutto è a posto, però come hai detto tu, magari fate un difetto, capito, che io non ho toccato, e lui però mi ha tirato male della giubbottiera. Ma è vero, caro, sa, quindi in teoria è così, perché è così. Nuova nuova, lui ha detto nuova nuova, magari esteticamente, internamente bisogna avere nuova, se non stanno pochi gli animali. Non lo so, mamma, non lo so, io non l'ho vista. La mia ti posso garantire che ci aveva ancora il sigillo nei coperchi, il suo cuore non ci piove, capite? Aveva ancora il sigillo nei coperchi, quindi le viti proprio nuove, nuove. La radio è nuovissima, dentro e fuori. In Israele io poi li conosco, quando la radio è usata, gli Israele sono tutti graffiati, il frontalino è graffiato, questa è nuova, nuova. Proprio nuova, nuova, nuova, nuova. Cioè tutto, mi ha dato tutto chi ha fatto il cambio, capito? Quindi, infatti quando l'ho acceso ho detto, cazzo, manco un decimale, beh. E allora l'ho messo, la prima cosa che ho fatto ho messo un decimale. C'è una funzione per poter mettere lo 00 finale, ne aveva uno solo. Quindi adesso ne ha due, come 440, come 430, eccetera. E poi mi ho preso il manuale che ho io, del 140 e del 70, gli ho fatto quelle tue. Mi abbassa. Adesso come te la faccio sentire? Tanto siamo sul 23, ma questo è il 440. Questo è il 140 con l'SM20, però non c'è l'MC60 qua, ma no, questo è il 140 con l'SM20. Poi, un abisso visto, l'altro è cazzo arriva la luna, che c'è un abisso? Quello è Danilo, quello è Danilo, l'ho sentito, non si sente, questo tu immagini, c'è cioè, picchi di modulazione, allora, parlando, è tutto il giorno acceso, No, un 20 watt di portante e quasi 100 modulati. Questa qua è tutta una cazzosa, vorrei dare la cazzo è tutta colpa, non si comprendia nulla. È come che tu stai parlando con un telo attaccato alla bocca. No, questa è fatta bene, infatti lui l'ha sentita, ma è toccata, fammela anche a me così. Andiamo a vedere se esce così o forse esce male, capito? Questa è così. SM20 della ICOM è con l'adattatore naturalmente, perché non è poco le connessioni, non lo stavo usando, invece usare 60 perché non ne ho. Ne ho due soli, col 430 e col 440, ci ho messo questo, però la senti la differenza. A voglia, cazzo se intende sì la differenza. Porta a casa io. Cosa? Lo porto a casa quello lì. Queste sono radio da usare veramente in 27, ha bisogno di lineare, ha bisogno di nuda. Questa l'ho presa, boh, sarà un mese fa neanche. Un mese fa neanche tu. Ehi, tanto non posso virare l'alimentatore in voce. Lo presumo, penso che vada bene. Vabbè, quanti ampere? 20, 30? Ampere. 30 ampere? 30 ampere. Sì, vabbè, io ho 50 ampere in quello, no, 60 ampere in quello della Boxer, perché le ne ha 60, e poi ho 50 ampere in quello della Diamond, quindi va bene. Ma qui non ce n'è l'alimentatore, qua c'è il PS50, sto alimentando il PS50, l'ho fatto riparare, c'aveva una resistenza che è andata in tilt, Emanuele. La gestione sono lì a giudice la luce bianca e ha detto ma via, ho spento subito, ma la mano mi ha bruciato la radio, sta volando 19 volts. Cazzo, è stato alimentato. Sì, sono alimentato l'uscita, no, l'ho portato dalla tecnica, da se hai capito la chi da cosa, quella via Mosca me l'ha sistemato, e adesso è perfetto, adesso c'è la linea, la 140 c'è la linea, c'è il 140, il PS50 la colonnina esterna. Ah, bello il 140, io ne ho avuto due di 140, una bella radio. Una bella radio esce anche bene in 27, se è tarata bene con la LC e tutto, se no esce una cagata, esce. Infatti questo quando l'ho preso era un baracchino normale, sembrava, ho detto la nuovo, la via nuda. Non sono aperto, non sono preparato, l'ho fatto diventare turbo. Vai, Anto, fratello era ministra. Sta posta è mangiata pure un miraggio, con un bicchiere di vino, di su. Accompagnata, va benissimo. Sento un bello che ha mangiato un rimbubbio, che è. Io mangio veloce. Lo so, no, io ho 8:30. A 8:30 mi siedo, piano, una mangiatina, vino niente, acqua e via, poi televisione, finta l'una di notte, cazzo mi sto coricando ma tardi, non prendo più sonno, ma non è. E una presa di quel mattino va giro c'è a becchi, ma tu lo c'è domani, breve. Ma che io sono così, va, io mi metto a letto alle 8:30, 9, no, dopo le 9:30 mi metto a letto. E mi accendo la televisione e verso l'una, l'una e mezza inizio a chiudere, a addormentarmi, dai, prima non riesce a dormirmi. E un mazzano alle 5:30 butto vari a chi bacia a burro vedo della modenza, faccio un casino della Madonna che mi invita negli impugni. L'ultimo che passa, mettere alle 8, capito? Alle 8 il vetro, gli altri alle 5:30, alle 6, gli altri cassoni, cartone, lume, tutto, però il vetro passa tardi, certo la svegliava tutto il quartiere, mi aggagino Mariano bomba a mano, vetro. Mamma mia, vai Antu. Pure, già lo so, pure che andava a pittare la sidotte per un casino del genere. Sono entrato in camera a pranzo, ho detto ma la bagassa che sta fatta a te, c'è un gas da pulire, si fa ragione, ti dico tutto a capo, ma le dobbiamo svuotare, vai, non ammara, vai, perché ero un pochettino, cioè non avevo dormito tanto bene, ho dormito, là poi mi si sono alzati di neve, mi si sono alzati, come sta gente sul calzino, vabbè, cosa vuoi fare? C'è il pro e il contro però. Lo fanno di mattina e da due di mattina non viene a rompere i cattoli, cioè devi stare 2 ore in colonna. E così è, lo so, purtroppo è così. Però giustamente loro devono lavorare, non è che uccidono loro l'aria, evidentemente l'ordine di servizio è così, anche ho capito. Però è un casino. Troppo presto, cazzo, poi passare fin qui in Manzano era un panno di un cassone in tre, qua il rione è grande, quindi il cassone è sempre pieno, fa un casino della Madonna, pariamo una bomba a mano. E allora abbiamo fatto una petizione praticamente, una raccolta di firme, l'abbiamo quando mai la gente la disinunda? E specialmente d'estate che tengo la finestra aperta, tutta la notte. Cazzo, uno o due asciughi mi sono combigliato, ma che cazzo di rimpugno quanti rimbiutani. Vabbè dai, ne approfitto per chiudere qua. La chiacchierata ce l'ho meno fatta. Ciao Claudio, ciao Antonio, dai, in casa ce la riascoltiamo le migliori, tutte le migliori. A te ancora qua. Ehi Emanuele, dai, un abbraccio, fatti sentire ogni tanto, mi fa piacere, e anch'io vi saluto perché è pronta la cena, dai. Ciao Antonio, ciao Emanuele, alle prossimine, ok, ci aggiorniamo domani, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti e due, sia a te Emanuele, sia a te a Claudio, dai. Ce la risentiamo, ciao, ciao. Ciao Antonio, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao a tutti e due. Sì, mi sta sul 10, dai. Dopo più tardi, se vai anche uno, non lo so, io